sono previste sanzioni per i trasgressori. Son fermo qui sulla banchina, mi muovo nella mia banchina e dormo qui sulla banchina, che sogno nella mia banchina. Son solo qui sulla banchina, che festa nella mia banchina. Qui sulla banchina non so, nella mia banchina però. Disagio qui sulla banchina, un bacio rotto nella mia banchina, bianco e nero qui sulla banchina, bei verdoni nella mia banchina, niente amore qui sulla banchina, compro tutto nella mia banchina. Qui sulla banchina non so, nella mia banchina però. Fischia il treno qui sulla banchina, 13 aerei nella mia banchina, suicidi qui sulla banchina, assistiti nella mia banchina, acciaio e rame qui sulla banchina, frodi, speculazioni, illeciti finanziari, derivati, CDS, equità, iaia, nella mia banchina. Qui sulla banchina.